7. Ascolta e controlla. 1. Matteo, dov'è il mio cellulare? Non so, non trovo il tuo cellulare. 2. Signori, dove sono i vostri documenti? Ecco i nostri documenti. 3. Roberta, posso usare la tua penna stilografica? Certo, ecco la mia penna stilografica. 4. Di chi è questa chiave? È di Roberto? Sì, è la sua. 5. Di chi sono gli occhiali? Sono di tuo zio? No, non sono i suoi. 6. Scusi, è il suo turno? Sì, è il mio.